cominciato tutto nel tardo pomeriggio di ieri, lo sblocco è avvenuto all'1:30 di questa notte, dove grazie a una paziente mediazione del funzionario della questura hanno mollato, liberato il cancello, fatto uscire gli operatori della cooperativa e riacceso l'impianto elettrico, che anche quello era fondamentale perché il campo era completamente al buio. Il questore di Venezia riassume la vicenda della giornata. Buonasera a tutti cari ascoltatori, 800 24 0024, vi aspettiamo anche questa sera fino alle 20 per stare insieme, 349 238 6666 per scrivere i vostri messaggi anche su WhatsApp. Buonasera da Alessio Maurizi e da Miriam Lucchetti, Matteo Ramelli, Pietro Lacorte in regia questa sera. Allora, la notizia del giorno è questa: la rivolta al centro di prima accoglienza di Cona in provincia di Venezia. Lì c'è stata una rivolta degli ospiti di questo centro di accoglienza, una rivolta che loro dicono, cerco di spiegarvela brevemente per provare a capirci qualcosa. Lì è morta Sandrine Bakayoko, una ragazza di 25 anni della Costa d'Avorio, sbarcata in Italia il 30 agosto scorso in attesa di avere una risposta alla richiesta di asilo, come per moltissimi di questi immigrati. Gli ospiti in rivolta di questo centro dicono che lei si è sentita male alle 7 del mattino, ma i soccorsi sarebbero arrivati soltanto alle 12:45 del mattino, cioè quindi diverse ore più tardi. Il 118 smentisce questa versione, però bisogna capire, smentisce l'attesa, bisogna capire quando è stato avvisato il 118 e soprattutto da chi è stato avvisato il 118, dai responsabili di questo centro. Questo centro cos'è? Chi è? Chi sono? Si tratta della cooperativa Eco Officina Educational Onlus, gestita da Gaetano Battocchio e Sara Felpati. Bisogna sapere che queste due persone sono indagate da maggio di quest'anno dalla Procura di Venezia per maltrattamenti e truffa negli appalti, cioè maltrattamenti da un lato e quindi truffa negli appalti, cioè appalti truffati, questa è l'accusa, e si pigliano i soldi, diversi milioni di euro, hai sentito anche dal giornale radio Valentina Furlanetto con una cronaca precisissima, oltre 10 milioni di euro, truffa agli appalti e però maltrattamenti alle persone che poi stanno nei centri coinvolte. La Conf Cooperative del Veneto ha sospeso questa cooperativa. Allora, la situazione è risolta, dice il questore. Sentiamo anche il sindaco Alberto Panfilio, che spiega un po' quello che è accaduto. È una sua logicità, ovviamente, questa protesta a caldo di fronte a una morte di una ragazza conterranea di 25 anni. Il problema è quello di sempre, il problema ha circa 16 mesi, lo stiamo urlando da tempo, grandi concentrazioni di questo tipo purtroppo portano con sé dei rischi. Quello che rimane è la tristezza di un decesso che ovviamente dispiace a tutti. È stata trovata questa ragazza presso un bagno doccia appunto all'interno della base. Sembra sia stata una morte naturale, è ovvio che la procura ha aperto un fascicolo. Che cosa dice il ministro dell'interno Minniti? Che cosa dice l'ex ministro dell'interno Angelino Alfano, adesso ministro degli esteri, che da 3 anni gestisce almeno questa che non è un'emergenza ma è una gestione che andrebbe sicuramente cambiata, migliorata, rivoluzionata? Non si può andare avanti così, sono anni, destra, sinistra, centrodestra, governi di unità nazionale, tutto quello che volete, perché nessuno ha mai affrontato seriamente questa questione dei centri di accoglienza, delle cooperative che ci fanno sopra il milione di euro, delle persone tenute in condizioni pietose spesso, bisogna dirlo, e delle rivolte, dei casini, stavo per dire, che sono successi 1, 2, 100, 1000 volte. Perché tutto questo conviene a qualcuno? Forse sicuramente conviene a chi si sta mettendo in tasca i soldi in questa gestione dell'accoglienza. In tutto questo infuria anche un'altra polemica, dobbiamo dirlo, perché che riguarda sempre il tema degli immigrati. Un post su Facebook di Forza Nuova che associa all'emergenza dei casi di meningite che c'è in diverse regioni italiane in questi mesi, con proprio con l'immigrazione. meningite, diceva questo post. Tutti sappiamo da dove arriva. Basta accoglienza killer. Le continue invasioni provenienti dall'Africa portano con sé, oltre alla sciagura terroristiche, gravi malattie che mettono in serio pericolo la salute pubblica. È stato chiesto a Facebook di rimuovere questo post, non è stato rimosso per i contenuti razzisti, perché si associa tutta l'immigrazione, come sempre, in queste affermazioni, in queste bufale, chiamate come volete, generalizzanti e sbagliate. Però si parte da una verità, perché ora non voglio difendere Forza Nuova, però che ci sia un legame tra l'immigrazione e delle malattie infettive che possono arrivare, come non c'è, lo dice l'ONU, lo dice l'OMS, ci sono dei piani di vaccinazione per questo. Come sempre le bufale arrivano in questo modo, partono da un spunto di verità e poi diventano, come in questo caso, accuse razzistiche abbastanza folli, per cui poi questo post adesso ad oggi non si trova più, quindi non si sa se è stato rimosso da Facebook o se è stato rimosso dagli autori di questo post. Sentite cosa risponde però un medico, il dottor Burioni, al fatto che dall'Africa arrivino i casi di meningite. Smentisce, perché? Sentite. I ceppi di meningite che circolano in Africa sono diversi da quelli che circolano in Italia, e quindi per questa particolare malattia non possiamo, come fanno alcuni, dare la colpa ai migranti per i casi che leggiamo che vediamo sui giornali. Qualcuno ha iniziato a mettere dei commenti xenofobi, altri ancora hanno cominciato ad inserire dei documenti che non avevano letto, perché apparentemente questi documenti, agli occhi di chi non era un esperto, dicevano qualcosa di diverso da quello che avevo sostenuto io. In realtà bastava leggere il lavoro e capirlo per rendersi conto che diceva esattamente quello che dicevo io, cioè che i ceppi africani sono diversi da quelli europei. E allora, cari ascoltatori, meglio la proposta di Pitruzzella, il garante delle comunicazioni, che propone un'autorità, delle autorità, un'autorità europea che verifichi le notizie, se ci sono delle bufale, delle fake news, come si dice in linguaggio anglosassone, e le censuri, oppure meglio la proposta di oggi, di Beppe Grillo, da tutt'altro punto di vista, che propone una giuria popolare per verificare tutte le notizie che ci sono in giro e se ci sono notizie false segnalarle, e nel caso il giornalista che le ha pubblicate deve risponderne. Enrico Mentana si è infuriato, si è incavolato come una bestia, e sentite che cosa ha risposto, perché sul post di Beppe Grillo si mette, c'è un fotomontaggio, ci sono le foto di varie testate giornalistiche, c'è anche il TG della 7. Mentana dice: in attesa delle giurie popolari chiedo a Grillo di trovarsi un avvocato, che si capisce che Mentana si sta incavolando sul serio. Fabbricatori di notizie false per noi è un'offesa non sanabile, ne risponderà in sede penale o civile. Che ne pensate? 800 24 00 24. Meglio l'autorità istituzionale dei vari garanti delle comunicazioni a livello europeo per verificare le fake news, o meglio una giuria popolare che verifichi tutto, tutto, tutto, ma proprio tutto, anche quello che accade nei giornali, nelle televisioni, nelle radio già affermate, che già sono sul mercato e che, dice Grillo, invece spesso e volentieri diffondono notizie false. 800 24 00 24. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, prima di sentire gli ascoltatori, tra poco sui temi di più stretta attualità, ricordo il numero verde 800 24 00 24. Diamo la buonasera e anche il buon anno a questo punto a Luca Mercalli. Buonasera, professore. Buonasera a tutti voi e ovviamente auguri reciproci. Allora, un inverno che non è stato un inverno fin qua, con temperature caldissime sopra la media in tanti posti, adesso poi vedremo anche di cosa bisogna stupirsi e di cosa magari no. Sembra però che adesso le temperature stiano tornando verso la media, che si vada sulla normalizzazione, quindi arriva il vero freddo. Servirà a compensare e a far tornare questo come un anno nella media, o rimarrà un anno, un inverno caldissimo e strano da studiare, da capire? Ma è ancora possibile che le cose abbiano una svolta verso compensazione del caldo che abbiamo avuto prima, o addirittura un inverno freddo, perché il trimestre invernale per la statistica inizia il primo di dicembre e termina al 28 di febbraio, quindi abbiamo ancora praticamente 2 mesi pieni di inverno e la situazione si può tranquillamente capovolgere. Tuttavia pesa il fatto che abbiamo avuto un mese di dicembre tra i più caldi delle serie storiche, che fa il paio con quello dell'anno scorso, che già era stato caldo, e quindi aspettiamo di vedere via via l'evoluzione. È stato intanto più caldo fredda. Questo? Scusa, è stato più caldo non questo? Non è possibile dirlo, come sempre. Ancora non è possibile. Sul mese di dicembre mese. Siamo praticamente poco al di sotto, è stato un po' più caldo okay. quello del 2015. Però comunque siamo lì, si battono sul filo dei decimi di grado le posizioni del 2015 e di questo dicembre 2016. Ecco, infatti, invece ora l'aria fredda sì. sta arrivando sì. e quindi nei prossimi giorni vedremo ecco. un bel calo delle temperature, soprattutto sulla zona adriatica, quindi entra aria come bora, come aria fredda da nord-est. Ah, non vedo l'ora. Sembra strano di poter dire non vedo l'ora che arrivi, almeno per me personalmente che non amo particolarmente, però quando manca per così tanto poi uno sente che c'è qualcosa di strano e che deve arrivare questo freddo invernale, insomma, altrimenti non sarebbe logico. Però ci sono stati 14, io ho letto alcuni dati, gradi sopra la media in Italia, per esempio a Cortina, 20 gradi in più della media all'Antartico, 18 gradi in Norvegia, c'è un articolo di oggi sul giornale che parla di questo, la Norvegia. Qual è la situazione più anomala, più strana che hai osservato in questi mesi invernali? Ma direi che la situazione dell'Artico è la più preoccupante. Come sempre le anomalie climatiche di un giorno non hanno un grandissimo valore predittivo sui cambiamenti climatici, possono essere dei capricci locali e temporanei. Invece quello che preoccupa è quando queste sono tendenze a lungo termine che durano mesi o addirittura anni. Da questo punto di vista l'Artico è particolarmente preoccupante, perché negli ultimi anni si sta riscaldando moltissimo, molto di più di quanto si riscaldino le nostre latitudini, e soprattutto diminuisce l'estensione della banchisa del ghiaccio galleggiante sul mare. In questo momento manca all'appello 1 milione di chilometri quadrati di ghiaccio, vuol dire circa 3 volte qualcosa l'Italia come superficie, perché il mare è molto caldo, le temperature hanno avuto scarti dalla media di alcuni gradi, con picchi anche di 20 gradi in più su alcune giornate rispetto alla media, quindi siamo sempre sotto zero. Ma diciamo che invece di essere a meno 30 gradi, eravamo a meno 10. Non sono pochi, 20 gradi. Non sono affatto pochi. Infatti, direi che quindi questo è un aspetto tra i più preoccupanti dei cambiamenti climatici attualmente sul pianeta. Infatti, perché io agli scettici che ci sono sempre in giro, è giusto che ognuno di noi abbia il suo punto di vista, si può sospettare, si può legittimamente cercare di approfondire, di capire, però agli scettici del cambiamento climatico o del fatto che nulla sta succedendo di grave, suggerirei la visione, io l'ho visto sul giornale di qualche giorno fa, era il Corriere credo, di 2 foto a confronto, sono tra l'altro sono ricerche foto della NASA, quindi non di Pinco Pallo. Parliamo di quello che dicevi tu, l'estensione dei ghiacciai al Polo Nord tra il 1984 e il 2016, si vede praticamente che sono quasi spariti i ghiacciai. È veramente inquietante, dicevi tu, preoccupante, sconfortante, trovate la parola che volete. Perché sono poi così invece importanti i ghiacciai e dobbiamo preoccuparci del fatto che stanno quasi sparendo? Ma intanto sono un indicatore importante, quindi un modo per avere un sintomo rapido e visibile da interpretare rispetto a tanti altri che sono più dei dati per addetti ai lavori e sono anche più difficili da comunicare. A casa nostra, per esempio, i ghiacciai alpini hanno perso la metà della loro superficie nell'ultimo secolo. Avevamo più di 4.000 chilometri quadrati a inizio Novecento, attualmente insomma ce ne restano meno di 2.000. Questo vuol dire meno acqua per l'agricoltura e per l'energia idroelettrica nei mesi estivi, vuol dire meno attrattività turistica, vuol dire anche cambiamento della flora, della fauna. tutto va sotto pressione quando la temperatura sale, ghiaccio e neve si riducono in termini di superficie, ma anche di tempo. Per esempio l'innevamento dura di meno, lo vediamo anche in questi giorni in cui le Dolomiti praticamente hanno le piste da sci con l'innevamento programmato e i prati quasi verdi a fianco perché non ha nevicato negli ultimi due mesi. Certo. Ecco, abbiamo tanti indicatori, quindi agli scettici diciamo, sostanzialmente gli scettici non sono mai studiosi del clima, questa è la cosa curiosa. Cioè si fa presto a essere scettici, più difficile è mettersi lì ad approfondire veramente. E poi c'è una grande responsabilità, cioè qui è in gioco il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti, quindi ciascun scettico, oltre che essere spesso non un addetto ai lavori nel campo della climatologia, ancor più si prende una grossa responsabilità di rischiare di rallentare tutti quei processi che dovrebbero invece farci curare il malanno climatico prima che diventi irreversibile, incurabile. Già, però se non fosse che tra gli scettici dobbiamo annoverare anche il signor Donald Trump, è futuro e tra poco presidente degli Stati Uniti, mi viene da ridere perché tutto quello di cui abbiamo le certezze che avevamo sin qua con Trump sembra che sia saltato per aria tutto, perché lui dice che il riscaldamento globale è una bufala, vuole smantellare l'Agenzia per la Protezione Ambientale americana. Secondo te queste posizioni avranno un seguito, avranno delle ricadute concrete? Può vanificare l'accordo di Parigi che è stato appena ratificato da abbastanza paesi da entrare in vigore? Ha tenuto il mondo col fiato sospeso questo accordo da cui si sperava risultati positivi per migliorare la situazione del pianeta. Come agirà secondo te veramente? Ma intanto sono degli annunci. Il discorso di fine anno del presidente francese Hollande invece, insomma, lui ha dichiarato: farò di tutto per impedire che qualcuno si metta contro l'accordo di Parigi, anche un grande paese, insomma il messaggio a Trump era esplicito, poi nessuno è in grado di giudicarlo oggi. Sicuramente quello che sta creando danni è proprio sul piano comunicativo, cioè il fatto di avere comunque forse il capo di Stato più rilevante del pianeta che prende una posizione di questo genere legittima nuovamente queste fiammate negazioniste. Sul piano invece pratico bisogna vedere quanto la giurisprudenza e il diritto internazionale metteranno dei vincoli e dei paletti a decisioni di questo genere. Tuttavia ricordiamoci che dietro questa scelta ci sono le lobby petrolifere americane, il fatto che il segretario di Stato americano sia l'amministratore delegato della ESSO ci deve far pensare. E per chi si candidava per rivoluzionare il sistema, per fare gli interessi dei cittadini, eccetera, è tutto da verificare. E staremo a vedere. Senti, un'altra cosa che devo dire è inquietante degli ultimi mesi, delle ultime settimane, vorrei fare il punto con te a inizio anno: l'isola di plastica galleggiante è stato scoperto anche nel Mar Mediterraneo, addirittura in Toscana è stata avvistata in una zona dell'arcipelago toscano e di dimensioni e con concentrazioni davvero inquietanti. Riusciremo a ripulirlo questo mare secondo te? Ci sta provando con una startup un giovane olandese che ha avuto un po' di pubblicità, ma è possibile tornare indietro? Quanto è pesante questo inquinamento del mare? Anche senza voler essere apocalittici, però ci sono le foto. Tra l'altro è tutta cose che sono nocive per la nostra salute, quindi nuovamente lasciamo un'eredità pesante a chi viene dopo, perché queste microplastiche che si vedono poco, uno può vedere un grosso oggetto galleggiante che poi fa male anche ai pesci che lo ingeriscono, ma quello che preoccupa più è questa specie di zuppa di frammenti di plastica pochi millimetri o anche più piccoli, che poi viene mangiata da tutti gli organismi viventi del mare e poi pian piano arriva anche nel nostro piatto con il suo carico di materiali tossici. Attualmente nel Mar Mediterraneo le concentrazioni sono grosso modo di un frammento di plastica per metro quadro di mare, quindi non è che c'è un luogo particolarmente influenzato, sì, si sono ritrovate concentrazioni particolarmente abbondanti tra la Sardegna, tra la Corsica e l'arcipelago toscano, però ormai ce n'è dappertutto. Più plastica noi buttiamo sia direttamente in mare ma anche su terra, perché poi con i fiumi certo, la plastica arriva anche al mare, e più accumuliamo per il futuro un'eredità scomoda. Ci sono questi annunci di macchinette per il recupero della plastica, ma secondo me sono degli esperimenti e anche un po' infantili, perché comunque qualsiasi oggetto che deve recuperare la plastica userà dell'energia e dovrà poi essere smaltita, quindi non è che la plastica si raccoglie da sola. A gratis. Da costruire delle macchine bisogna poi mettere su un servizio, navi che caricano quello che questi oggetti hanno raccolto, smaltimento su terra. Quindi, come sempre, disinquinare costa molto di più che non inquinare. Bisognerebbe imparare a farlo. Ecco, a proposito, dall'Italia, noi siamo fra l'altro immersi in mezzo all'acqua, siamo il paese che ha più coste, forse in proporzione di tanti altri, dovrebbe arrivare un messaggio, deve arrivare un messaggio, ma pensando al dibattito degli ultimi mesi, forse anni in Italia, la pagella ambientale che ti senti di dare ai governi, tutti, da Monti, Berlusconi prima, Letta, Renzi, adesso Gentiloni, mi sembra che si è parlato di Jobs Act, di buona scuola, di unioni civili, anche la riforma del Senato, mesi e mesi a parlare, ma di questa questione dell'ambiente si è parlato, mi sembra, molto poco, forse per niente. Che ti sembra? Verissimo, verissimo, anch'io questa percezione. Siamo un paese dove l'ambiente sembra veramente il fanalino di coda dell'interesse, del dibattito pubblico, eppure ne va della nostra salute, quindi dovrebbe senz'altro essere un argomento fondamentale anche per la creazione, tra l'altro, di un'economia nuova di cui tanto parliamo. Certo, investimenti, posti di lavoro, sai quanta gente potresti far lavorare. Mai. Proprio anche il governo Gentiloni si è subito distinto poche ore fa, pochi giorni fa, con l'approvazione del mille proroghe, nel quale ancora una volta si rimanda l'obbligo della produzione su nuovi edifici di almeno il 50% dell'energia con i pannelli solari, con energia rinnovabile. Ecco, rimandiamo, tanto che non c'è frega. Perché prorogarlo? Dovremmo al contrario dire presto, fate presto, domani mattina è obbligatorio. E invece così va il mondo. Caro Luca Mercalli, grazie intanto per essere stato con noi. Auguri di buon anno ancora e speriamo di poterne raccontare di migliori in avanti su questo tema. Grazie ancora. E allora, prima della borsa, un ascoltatore. Vai, iniziamo. 800240024, Bruno da Pescara. Ciao, buonasera, benvenuto. Buonasera, buonasera. Dunque, sono a letto con la febbre. Ad alcune dichiarazioni che ho sentito dal nostro predicatore da strapazzo, di cui non faccio il nome, ma chi avrà capito di chi parlo, che parla continuamente contro la stampa, contro i giornalisti. Ecco, adesso abbiamo capito, Beppe Grillo, vada, Beppe, sì, Bruno, Beppe vai. Beppe Grillo, tanto che non dirò Beppe Grillo. Io sono appoggio pienamente l'iniziativa di Mentana, il quale l'ha querelato, spero che lo porti spero che lo porti in tribunale e lo faccia condannare a risarcire tutte le cazzate che va dicendo di questi tre okay. Ma lei ha fiducia cieca in quello che scrive la stampa, in quello che dicono le radio e TV? Non potrebbe avere ragione Grillo, che qualche volta ci sono anche veicolati dei messaggi che non vanno bene, eccetera? Il 95% ha torto Grillo, ha torto a prescindere. Lei non sta simpatico Grillo, abbiamo capito. Assolutamente. Anzi, io Bruno, auguri di pronta guarigione dal letto della sua malattia, si riprenda, mi raccomando, ci risentiamo tra poco dopo la borsa. Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi programma radiofonico, scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore, scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy, ogni domenica alle 14.30, su Radio 24. Un programma di Pino Insegno. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Minuti, buonasera da Alessio Maurizi, ben ritrovati a tutti. Allora, un po' di messaggi al 349-238-6666, messaggi opposti che testimoniano il fatto che quello che abbiamo detto si può interpretare in un senso o nell'altro. Vergogna, siete peggio di Forza Nuova, credo, perché ho detto che c'è un collegamento tra l'immigrazione e alcune malattie che possono essere anche malattie infettive, anche se abbiamo fatto sentire l'audio del dottor Burioni, che smentisce il collegamento con la meningite. Sono ceppi diversi, dicono i medici, però il collegamento c'è e lo dice il ministro Lorenzin, lo dicono l'OMS, l'ONU, ci sono dei piani di vaccinazione apposta per gli immigrati, quindi non ho detto quello che ha detto Forza Nuova, è diverso. Poi un altro ascoltatore che invece dice: perché se io vado in Eritrea mi devo vaccinare? Appunto, e questa è una delle motivazioni, è una delle questioni. Poi ancora, che altro? Vediamo un po'. Sulla questione di Mentana c'è un messaggio, leggiamo da qualche altra parte. Questa è bellissima, sul surriscaldamento del clima di cui abbiamo parlato con Mercalli poco fa, c'è una definizione nuova: è l'effetto stalla. Siamo troppi sulla Terra, il surriscaldamento del pianeta, scrive questo ascoltatore, è il classico effetto stalla. Non è male come definizione, un po' greve come parola, però molto, molto chiara in quello che vuole significare. Carlo da Taranto, buonasera e benvenuto, prego. Buonasera a lei e buon anno innanzitutto. E io non sono d'accordo con l'ascoltatore di prima che la stampa al 95%, forse abbiamo un 5% in Italia che ci dice il vero. E ho chiamato per dirle che non mi ha convinto molto. Sì. Quello che è stato detto oggi sull'autopsia di quella povera ragazza che è mancata nel centro di prima accoglienza, tanto più gestito da persone molto discutibili. Questa ragazza, sì, pare che da giorni avesse la febbre alta, quindi doveva essere ricoverata in un ospedale. Perché non è stato fatto? Perché è stato preso tutto con comodo? E allora, quando la stampa appoggia certi personaggi, e beh, se permette... Ma scusi, ma quale stampa e quali personaggi? Non ho capito. Chi avrebbe detto qualcosa di diverso? Di regime, perché non possiamo escludere che abbiamo una stampa di regime. Ma no, ma non Italia. Possiamo escludere nulla, assolutamente. Però non ho capito in questa vicenda quale stampa avrebbe occultato quali notizie. La notizia che è stata data... Sì. Di comodo, sì. Secondo me, per carità, me ne assumo anche le responsabilità, avete il numero, come possono aver fatto già l'autopsia in un giorno? Di solito faremo sapere con l'autopsia. Molto probabilmente si è voluto liquidare il problema e la stampa ha dato la notizia senza porsi neanche l'interrogativo. Non so se riesco a spiegarmi. Cioè lei dice che la morte non sarebbe avvenuta oggi, oppure che l'autopsia non esiste? No, la morte è avvenuta forse oggi, sì. Per carità, non dico di no. Però, visto che questa ragazza era febbricitante da molti giorni, sì, con temperatura alta, sì, doveva almeno essere portata in un ospedale. Ma questo chi non c'entra nulla con la stampa, però, mi scusi, ha ragione, questo è verissimo, però non c'entra nulla con chi ha dato la notizia, c'entra col fatto che in quel centro, i cui notizie, gestori sono già accusati di maltrattamento, evidentemente non hanno gestito come si doveva il centro. Io intendo dire che chi dà le notizie, sì, deve anche accertarsi se è veritiera o meno. Se no è inutile stargli a dire le panzane che mettiamo tutti quanti su Facebook, è un divertimento, ma la stampa non se lo può permettere. Allora però, caro ascoltatore, di cui adesso non ricordo il nome, vediamo, Carlo, la notizia dell'autopsia la diffonde l'agenzia ANSA citando il nome del sostituto procuratore che ha avuto il referto sotto mano, quindi ci sono i nomi e cognomi di queste persone, è difficile che sia una bufala, però dubitare non, a pensare male, diceva Andreotti, non si fa peccato ma non si sbaglia. Grazie Carlo, buona serata. Marco da Padova, prego. Sì, posso intervenire su cosa? Su Mentana? Su quello che vuoi, Marco, su, sì, quello che vuoi, allora, argomenti di giornata, vai. Sì, niente, praticamente Mentana secondo me sta cercando un giornalismo 3.0, perché passando da un 2.0, cioè io lo colloco così, sta cercando la collocazione, deve difendere la sua posizione, quella dei giornalisti tradizionali. Uh-huh. Ora ci sono parecchi siti che minacciano i media tradizionali e secondo me manca anche un po' di onestà intellettuale. In tutto questo inseriamoci, secondo me lui è anche un po' narcisista e quindi malato di protagonismo. Questo, cioè, sicuramente è un narcisista come tanti di noi, di tutti noi in generale, sì, sicuramente avrà delle manie, sì, di protagonismo, anche ben soddisfatte, che è protagonista da tanti anni della scena. Non ho capito però di lì a accusarlo di che cosa? Di diffondere false notizie? Ma perché lui ha degli interessi, no? Tutti noi abbiamo degli interessi da difendere, i suoi, sì, sono chiari, lui non è un uomo libero, deve rispondere a un editore. Cioè lui idealmente... Sì, ma il suo editore fa, però che interessi avrebbe? Di che tipo? Su quali... Non lo so, dica lei, faccia una accusa precisa. L'ho detto. Praticamente ci sono i siti adesso, i siti di internet... La concorrenza, il tema è la concorrenza. Certo, il tema è la concorrenza, grande anche. E perché lo sa, perché è una persona secondo me di una fine intelligenza. È molto intelligente, però non è onesto intellettualmente a sto punto, perché lui lo sa qual è il problema, però non lo dice a chiare lettere, ma ci mancherebbe altro, cosa vuoi che venga a dirti? Che lui ha degli interessi da difendere e quindi non può dire quello che pensa realmente. Però guardi, allora dico questo, anche Grillo ha degli interessi da difendere, perché la Casaleggio Associati è proprietaria di alcuni siti di notizie che hanno delle pagine Facebook con un milione di followers che diffondono notizie borderline, a volte sono anche delle non notizie e sono proprietà della Casaleggio e quindi dall'altra parte. Io non lo vedo così grossi gli interessi e comunque il Movimento 5 Stelle fa gli interessi degli italiani. Cioè, va bene, questo è il suo punto di vista. Va bene. Sfido a un confronto con Mentana, che sarebbe ora che lo fa, perché è stato già invitato varie volte anche da un certo Daniele Tizzanini di Genova a confrontarsi in un hangout. Sarebbe divertente comunque un confronto tra Mentana e Grillo, sarebbe comunque divertente. Ma non credo che lo deve fare con gli attivisti. Ah, con gli attivisti. Grillo non può sporcarsi le mani a fare. Ma non è Grillo l'ha detto, è un portavoce. Sì. Grillo non è niente. Che ha creato Grillo non è niente adesso, mi scusi, Grillo è garante del movimento, è quello che decide vita, morte e miracoli del movimento, questo bisogna ricordarselo. Votato un codice online, lei ha votato? Certo, e gli altri lo fanno, gli altri partiti permettono questo, gli altri partiti hanno delle loro regole sbagliate, sbagliatissime, perché guardi, non sarò io a difendere gli altri partiti, figurati cosa me ne frega del comitato centrale, della direzione nazionale, di quello e quell'altro, il PD ha dei riti barocchi, Forza Italia non ha riti perché decideva tutto Berlusconi, il Movimento 5 Stelle ha queste regole nelle quali Grillo è il garante, questo ma spingono dalla base, io sono sicuro che lui sta facendo quello che voglio anch'io, non è lui che mi detta a me cosa devo fare Grillo, lui mette sul banco delle cose, lui sente la rete, cosa vuole. Certo, beh, del resto è stato votato, lei ha votato oggi al codice? Sì, altro che, ho votato tutte e due sì. Ma li sai i risultati? No, non sono ancora stati pubblici, perché alle 19 finiva, vero il voto? Sì, alle 19. Va bene, Marco, se in serata arrivano i risultati, vuoi richiamarci dopo le 19, lo commentiamo insieme, eh? Va bene, grazie mille. Va bene, grazie. Ciao, a dopo. Cristian da Roma. Sì, niente, no, una semplice cosa, nel senso questa cosa di Grillo a me ricorda molto il periodo fascista e comunista. Io ho 48 anni e sicuramente mi ricordo della Pravda, quanto poi studiando e leggendo, del Popolo d'Italia quando è stato fondato da Mussolini. È un po' pericolosa secondo me questa posizione di Grillo. Vabbè, però scusami, della Pravda ti puoi ricordare per sentito dire, perché 48 anni è qualche anno più di me, ma noi che ne sappiamo della Pravda, era in Unione Sovietica. No, però sicuramente perché poi dopo il fatto che da quel regime noi ci veniva probabilmente anche modificata un certo tipo di percorso, però sicuramente l'ultimo esempio è stato magari la televisione sovietica in cui c'era il centellinamento delle notizie. Comunque a me mette un po' paura questa posizione, diciamo che più di questa mi aspetterei una censura poi successivamente a quest'idea di Grillo, sì, perché non si parla certo di Movimento 5 Stelle per quanto mi riguarda, ma è un movimento di Grillo, punto. Tutto il resto va bene, questa è l'idea. Va bene, Grillo, va bene, Cristian. Grazie, a dopo torneremo su questo argomento, perché in serata alle 19 finisce il tempo per votare il nuovo statuto, credo, e quindi dovremmo sapere se è stato approvato il nuovo codice, che prevede tra l'altro, sapete, i cambiamenti vari eccetera eccetera. Magari più tardi lo commentiamo. 800 24 00 24, tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, in una giornata come questa, dove si è concluso fortunatamente bene la vicenda della rivolta al centro di identificazione di, in provincia di Venezia, dove però è morta una ragazza e dove ancora una volta si è dimostrato il fallimento di queste, del funzionamento di questo sistema di accoglienza degli immigrati. Cosa possiamo fare noi, oltre a darvi la parola, ascoltatori, per sfogarvi, per dire quello che pensate, eccetera, eccetera, se non provare a raccontare una storia leggermente diversa, una storia forse più positiva, dove l'accoglienza ha il merito di diventare una forza, un valore, una forza che fa rinascere addirittura cosa, chi, dove, un piccolo paese, ma è accaduto anche altrove. Qua siamo in provincia di Torino, a Chiesa Nuova. Gli immigrati richiedenti asilo ci sono pochi, ma sono integrati, stanno ospiti in delle case, stanno facendo dei lavori, lavoretti, volontariato, ma anche lavori, stanno contribuendo a rivitalizzare un paese. Con noi è Annalisa Fontana, che è la coordinatrice del progetto SPRAR del comune di Chiesa Nuova. Buonasera. Buonasera a tutti. E buon anno anche a voi, naturalmente. Allora, io ho tratteggiato così brevemente quello che oggi alcuni giornali riportano, proprio perché l'attualità della questione c'è, e così viene descritto questo borgo di montagna, noi vivi addirittura grazie anche agli immigrati. Senza andare a tirare troppe conclusioni, di cosa stiamo parlando, come siete riusciti a organizzare questa accoglienza in modo positivo? Allora, prima di tutto devo fare subito una precisazione. Per rispetto degli abitanti di Chiesa Nuova, di tutto il lavoro che hanno fatto i sindaci in tutti questi anni, il paese non vive grazie agli immigrati. Sì, e qui c'è una forzatura del titolo, vabbè, lasciamo stare, sì, questo, certo, questo no, aspetto. Mi dispiaceva dare, sì, questo taglio. Sono perché... le generalizzazioni dei giornalisti, che una, esatto, ne fanno e cento, esatto, ne sbagliano. Via. Cioè, c'è stato un incremento, ci sono famiglie nuove, però il paese, perfetto, c'era, viveva e con fatica, con tutti gli sforzi di tutti gli abitanti, perché vivere in montagna non è facile. Il nostro progetto è un progetto di lunga data, è nato nel 2001, uh-huh, e va avanti da 15 anni. In questo momento ospitiamo famiglie, sì, per la precisione 7 nuclei familiari. Provenienti da più o meno quali, da diversi, diverse nazionalità, abbiamo il Congo, abbiamo russi di etnia cecena, abbiamo ucraini, abbiamo avuto tutte le nazionalità in questi, okay, 15 anni. Sono richiedenti asilo, sono profughi, sono certificati, che cosa sono? Sono, da noi arrivano con il progetto SPRA del Ministero degli Interni e sono tutti richiedenti asilo, okay, oppure hanno già ottenuto lo status. Quindi sono persone che potrebbero anche avere una risposta poi positiva o negativa a questa richiesta di asilo, o in alcuni casi sono già dei veri e propri profughi. Già riconosciuti. Perfetto. Sì, certo, certo. E sono accolti, mi scusi, vado per tappe perché le cose da raccontare, sì, sì, sono, certo, tante. Allora cerco di, certo, cogliere alcune curiosità per chi non conosce questo tipo di realtà. Sono, per esempio, ospiti in case vere e proprie, case che si erano svuotate. Loro sono in piena autonomia, uh-huh, ci sono alcune alloggi della proprietà comunale, sì, e alcuni che sono stati affittati da gente del paese. Ok, e chi paga però l'affitto in questo caso ai privati che sono proprietari di queste case che magari erano vuote? Lo pagano il progetto. Lo paga il progetto, c'è un progetto che si va a bando con i fondi del ministero. Benissimo. Con fondi, noi abbiamo una gestione diretta da parte, sì, del comune, non usufruiamo di cooperative, e c'è una rendicontazione molto controllata, dal minimo centesimo, e gli affitti vengono pagati, fanno parte dei costi e vengono pagati con questi soldi. Ok, quindi facciamo conto che io sono proprietario di una piccola casa a Chiesa Nuova e l'affitto a una famiglia di 4 immigrati, dal ministero tramite voi ricevo, quanto ricevo, giusto per capire, per quantificare anche? L'affitto del mercato, l'affitto che c'è nel libero mercato. Quindi? Non so, da noi i redditi non sono molto alti, perciò non so, 200 euro, benissimo, 180, 250, dipende anche dalla grossezza dell'appartamento. Okay. E per chi affitta, chiaramente si tratta di una possibilità che prima non esisteva perché non c'era più, certo, mercato, certo, non c'era, certo, più interesse. E questo, certo, l'abbiamo acclarato. Che, sì, tipo di integrazione, che tipo di percorsi, che tipo di volontariato o di lavori fanno queste persone? Perché sappiamo che, allora, uno dei punti di forza è proprio siccome questo. Noi quando arrivano, pensiamo già quando devono uscire, perché sennò tutto il lavoro è vano, facciamo il nostro nostro punto di forza sono i tirocini formativi. Cerchiamo di vedere un po' i background scolastici di queste persone, a parte che frequentano i corsi di italiano obbligatori, facciamo 17 ore al giorno, di 17 ore alla settimana di italiano. Per prima cosa è l'italiano fondamentale. Sì. E questi corsi e poi, sono tenuti da volontari o da persone che ricevono misto, un rimborso spese? Abbiamo dei corsi pagati e dei corsi fatti da volontari. Ad esempio, abbiamo un corso tenuto da un volontario per aiutarli a prendere la patente, perché prendere la patente è una cosa molto difficile per uno straniero. Perfetto. E allora, frequentando, poi è sempre italiano unito in termini più tecnici, facciamo anche questi corsi. E questi sono misti da volontari e pagati dai posti di lavoro, sì. Quindi corsi di italiano, corsi per fare la patente, eccetera. Questo sì, per quanto riguarda iniziamo... quello che queste persone ricevono. Invece per quanto riguarda quello che queste persone anche danno in termini allora, di... Allora, le spiego subito che c'è una piccola differenza da accogliere i singoli ad accogliere le famiglie. Noi accogliamo famiglie e perciò la preoccupazione maggiore di queste persone è cercare subito un lavoro perché hanno una famiglia da mantenere. È diverso da avere dei singoli che poi magari possiamo impiegare in attività di volontariato. Quando vengono chiamati per comune, per piccoli lavoretti, si sono sempre dati da fare. Ma tipo che tipo di lavoretti, tanto per capirsi? Ma non so, tipo dei piccoli traslochi del comune. Quando abbiamo fatto la raccolta differenziata si sono prodigati per portare i contenitori alle varie famiglie. Insomma, queste piccole cose nel paese. Adesso non abbiamo ancora avuto la neve, ma se ci fosse la neve fanno... Spalano la neve, certo. La neve dove ci sono magari le persone più anziane, ecco. Non è che puntiamo sul volontariato perché, come dico, sono nuclei familiari. Noi puntiamo a cercargli il lavoro, che trovino immediatamente lavoro da poter integrarsi e poter rimanere. Però in una comunità come la vostra, un paese di montagna, quanti metri di altezza stiamo parlando? Siamo a 600 metri. 600 certo, metri, quindi mezza montagna. Cioè, che tipo di lavoro si può trovare lì? Ma ad esempio noi abbiamo un'agrifornería che ha assunto due ex beneficiari e poi naturalmente ci rivolgiamo al territorio, alla cittadina di Cornier sotto dove ci sono delle fabbriche, al altri paesi qui vicino. Abbiamo fatto tanti tirocini suddivisi in tante categorie, non abbiamo, andiamo a cercare dove c'è, purtroppo il lavoro non ce n'è molto, ma cerchiamo con dei tirocini di farli conoscere, loro hanno molta voglia di lavorare, molta voglia di rimanere e nel caso, ecco, hanno voglia di rimanere, lei sta dicendo, e nel caso in cui ottengano per esempio lo status di rifugiati, quindi dal punto di vista giuridico chiariscano la loro questione in termini positivi, possono rimanere in Italia, tanto per essere brevi, capita che queste persone poi si fermino anche, che siano lì da voi da molti anni, si fermino nella vostra comunità, allora, o è solo di passaggio? Nello specifico proprio a Chiesa Nuova è un po' difficile perché, come dico, è un paese piccolo, però nei paesi qui nei dintorni ci sono tante famiglie che si sono fermate, moltissime. Quindi può essere una base per poi appunto anche rimanere sul territorio. È secondo lei un sistema estensibile ad infinito, oppure questo dell'accoglienza SPRAR, così come ce l'ha raccontato, oppure è legato, limitato a città piccole, situazioni piccole, controllabili, e quindi non potrebbe essere un metodo da, come dire, adottare al 100% per quanto riguarda l'accoglienza degli immigrati in Italia? Secondo me è il metodo migliore, certamente che i piccoli numeri aiutano. Piccoli numeri sono più integrabili, creano meno disordine, creano meno paura nella popolazione. Capisce che 4 nuclei familiari, 3 nuclei familiari, 5 nuclei familiari si gestiscono, non possono creare un grosso problema. Però ecco, faccio io l'obiezione qual è? Sì. Mi dica lei se è vero, questi progetti avvengono sulla base volontaria dei comuni che aderiscono, quindi non ci può essere imposizione, e quindi se non ci sono abbastanza comuni piccoli, medi o comunque realtà come la vostra che accettano e fanno di buon grado questa cosa, il sistema di per sé non si può estendere, è così? Sì, finché la scelta è volontaria è logico, deve essere il comune, però le dirò una cosa, che le buone prassi e vedere che le cose funzionano è il campanello più, diciamo, adesso non so come spiegare, cosa migliore, perché ad esempio dei comuni qui vicino hanno aderito, comune confinante con il nostro che è Borgiallo ha aderito allo SPRAR l'anno scorso, un altro dopo il comune di Colleretto Castelnuovo ha aderito allo SPRAR. Magari vedere che, cioè, hanno visto come facevate voi, hanno visto però esatto. Guarda, funziona, interessante, guarda caso, esatto. Perché no? E io a questo punto intanto la ringrazio, dottoressa Fontana, per essere stata con noi. Voglio dire agli ascoltatori cosa ne pensano. Vi ha convinto questa ricetta, questa possibilità? Non è la prima volta che se ne parla, insomma, fra i tanti soldi che lo Stato spende, lo Stato italiano spende bene o male, in servizi o in disservizi, spesi bene o buttati via, lo sappiamo, in tanti sprechi, questi soldi qua di questo tipo di accoglienza che generano affitti per chi affitta la casa, corsi per chi fa il professore e insegna l'italiano a queste persone, piccoli lavori, volontariato, e quindi rianimano anche una comunità, se sono spesi bene o se sono spesi male. 800 24 00 24, tenendo conto che costituisce tutto ciò una risposta a un problema che cui altro versante è quello di cui abbiamo parlato in apertura, cioè quello che è accaduto al Cona di Venezia. Andiamo, prima di chiudere, ancora con Claudio dalla provincia di Milano. Buonasera Claudio. Sì, buonasera. Devo essere sincero, volevo intervenire su Grillo. Sì? Anche se sono rimasto un po' sconsolato da alcuni commenti che ho sentito prima di me, perché... Da parte anche di chi? Sentire che Grillo non conta nulla, che Mentana degli interessi, veramente mi fa comincio ad essere veramente preoccupato. Io quello che volevo dire è che è preoccupato, perché diciamo una cosa Claudio, che si può dire che Mentana abbia degli interessi, che tema la concorrenza dei siti di news, si può dire, ma che Grillo non conta nulla, quello anche io sono d'accordo che non si può dire. Grillo magari non sarà il proprietario, ogni però volta che qualcuno clicca sulle bufale che lui mette in giro, perché insomma, non lo so se è il proprietario, però dire che non conta nulla anche a me sembra no, un po' esagerato. È una follia, ma a me sembra che ormai si è entrati proprio nella questione della fidelizzazione come una volta era con Berlusconi, cioè ormai quelli che votano Grillo lo voterebbero in qualsiasi caso. Comunque volevo dire che questa proposta è una vera follia, non è che una notizia è vera, non è che se una buona parte di persone che poi immagino voteranno sul blog di Grillo, che è sempre un qualche cosa di privato, stabilisce che i vaccini non funzionano, allora i vaccini non funzionano, perché come ha scritto giustamente un medico qualche giorno fa su Facebook, la scienza non è democratica, la scienza viene, ci vuole studio, ci vuole un minimo di nozione per stabilire alcune cose, non è che con tutto rispetto per tutti, non è che sì, uno poi può essere libero di rifiutare il trattamento scientifico, questo sì, è sempre Claudio, che c'è poi alla fine la libertà delle persone, questo sì, però ho capito, non... sì prego, finisci. È veramente una cosa folle. Sono veramente contento del fatto che Mentana a questo punto faccia una cosa che probabilmente andava fatta da tempo, cominciare a correlare per quello che viene detto, e credo che se noi non interveniamo a bloccare queste diciamo queste bufale, queste qui non sono solo, perché ho sentito anche l'altro, sì, devo chiudere Claudio, devo chiudere, abbiamo il giornale radio, grazie a tutti, ci risentiamo dopo il GR 800 24 00 24. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Emigra. 19:16 minuti. Buonasera a tutti, ben ritrovati. Buonasera ad Alessio Maurizi. Allora, 800 24 00 24. Riprendiamo da qua. Riprendiamo dagli ascoltatori. E andiamo con Marco che chiama da Bergamo. Buonasera, Marco. Sì, buonasera a voi, complimenti, che sollevate sempre dei temi molto, molto sensibili. No, io mi volevo allacciare con la faccenda qui di adesso questo allarme, probabilmente di questa meninge o meningite, scusate, o sì. Meningococco che sì, sia. Sì. Ma sì, in effetti l'impressione non è che ci siano dei grandissimi controlli. Adesso chiamiamoli profughi, chiamiamoli immigrati, chiamiamoli come vogliamo, ma noi sappiamo benissimo chi fa anche un semplice viaggio a quali controlli o comunque a quali vaccinazioni deve sottoporsi. Adesso mi sembra abbastanza incosciente e incoerente che arrivino queste migliaia di persone e i controlli siano un po' l'impressione all'acqua di rose. Poi Ma ha ragione, che lo dimostra quello che è accaduto a Venezia, no? In quel centro, una persona malata che poi è morta, chissà, probabilmente... Ma magari è morto di smorta di suo, va bene, nel senso, mi dispiace, ci mancherebbe altro, un essere umano... Pare per una trombosi, però, quindi, però è vero che comunque il modo in cui vengono tenute le persone in quei centri dimostra che non c'è molta attenzione anche alle condizioni di salute, e quindi quello che lei dice è sensato. Ci sono dei piani di vaccinazione degli immigrati, in alcuni casi vengono fatti appena sbarcano, in altri casi dovrebbero essere fatti dopo, sicuramente qualcosa si fa, ma si dovrebbe fare di più. Su questo le do assolutamente ragione. C'è un collegamento, sì. Giro dappertutto, specialmente le grandi città, che me le giro a piedi perché purtroppo in macchina, però ci sono veramente delle situazioni che sono inverosimili. Io penso che sono sotto l'occhio di tutti, poi facciamo, dicono che si fa demagogia, si fa politica, tutto quello che volete, ma sono lì da vedere, poi scusate se sorrido perché non c'è poco da ridere, ma ragazzi, siamo veramente all'incoscienza e all'incoerenza se questi ragazzi vengono tenuti lì così, come degli animali abbandonati. Non lo so, è abbastanza inquietante come cosa, non so voi, ma è inquietante. È inquietante, assolutamente inquietante. Sono domande che possono essere girate a tanti, a tanti, anche a chi, per esempio, politicamente, come la Lega, alimenta anche una parte del consenso su questa questione e propone delle politiche molto più severe. Ma la Lega pure è stata al governo, ha avuto il ministro dell'interno Maroni, adesso è difficile fare confronti con quel periodo, quanto al numero di sbarchi, ma gli sbarchi magari erano meno, ma c'erano anche allora, non c'erano i centri di identificazione, c'erano altri tipi di centri, ma questi problemi ci sono sempre stati, e forse è anche in parte impossibile eliminarli del tutto, anche con questo dobbiamo farcene forse una ragione, però no, sicuramente però meglio di quello che stiamo facendo si può fare, su questo. Certo, non è una questione di leggi o di regole, ma sicuramente l'attuazione delle stesse, che ne abbiamo parecchi in Italia. Però ripeto, a fronte di un fenomeno che quando è stata varata la Bossi-Fini probabilmente era di un'entità X, oggi è ovviamente sotto gli occhi di tutti è diversa, e forse bisognerà cambiare qualcosa, ma così lasciare che tutte le cose siano così mi sembra un po'... Cosa? Cambiare che cosa, per esempio, Marco? Cambiare cosa? Così non si può comunque andare avanti, anche perché arrivano quotidianamente, ho sentito che ne sono arrivate ancora circa 400 oggi, e siamo abituati a sentire che ne arrivano qualche migliaio al giorno. La domanda è, tutta questa gente qua dove va? Poi c'è chi dice, vabbè, vanno al nord, va bene, vanno al nord, vanno di qui, vanno di là, però io vedo che nelle nostre città ce ne sono parecchi, tutti che si lamentano, vedo anche dei servizi, poi sicuramente di parte, tutto quello che vogliamo, ma comunque il malcontento generale, secondo me, è anche dettato da ce ne sono troppi in giro di questi ragazzi, queste persone, questi uomini, queste donne. Poi cosa si può fare? Io non lo so, non è il mio mestiere, ma così no. Tante proteste e poche proposte, sintetizzo io. Grazie Marco, buona serata. Grazie a voi, buona serata. Andiamo con a proposito di Marco, c'era l'altro Marco da Padova, se vogliamo richiamarlo, ascoltatore del Movimento 5 Stelle, che oggi ha votato per il nuovo codice etico, perché dovrebbe essere finito la votazione online, e sarebbe interessante sapere come è andata a finire anche con quell'ascoltatore lì. Daniele da Bologna, buonasera. Buonasera. Io sono un ascoltatore di Radio 24 da qualche anno. Sì. Sinteticamente io non sono d'accordo con la dottoressa Fontana, perché quella che parlava della dottoressa Fontana di Chiesa Nuova, che ha parlato dell'accoglienza in quella cittadina montana in provincia di Torino. Sì, esattamente. Guardi, io cerco di essere dove non sintetico. È d'accordo, prego. Allora, praticamente bisogna essere molto sintetici. Gli aiuti in questo momento qua vanno alle famiglie italiane che sono veramente disperate. Io giro molto l'Italia, sono un tecnico, e le posso assicurare che questo problema è molto sentito. Ognuno di noi vorrebbe aiutare, e il progetto non sarebbe male sulla carta, però le famiglie italiane sono allo stremo, e non parlo della mia per fortuna, perché sì, io non lavoro abbastanza sicuro, perché sono un tecnico, giro l'Italia e guadagno anche discretamente, però qua a Bologna è una strage, come Torino, come Roma, sì, di persone che non hanno lavoro. No, no, ma sicuramente, però Daniele, non per non darle ragione, però l'obiezione è, se si offrissero agli italiani quelle condizioni che si offrono agli immigrati di Chiesa Nuova, cioè l'affitto pagato, eccetera, eccetera, quanti accetterebbero? Non lo so, intanto credo che bisogna aiutare sicuramente anche l'italiano in difficoltà e ci sono anche aiuti di quel tipo lì. Dopodiché partiamo da un problema, cioè partiamo da un dato di fatto, l'immigrazione c'è, arriva, o si riesce a fermare via mare in qualche modo, o se non si riesce bisogna farci i conti. Allora quello è un modo per farci i conti. Poi quanto agli italiani che accetterebbero di andare a vivere a Chiesa Nuova con l'affitto gratis, guardi che a Chiesa Nuova, credo l'ha detto la dottoressa Fontana, con 200 euro al mese, 150 euro al mese affitti una casa per una famiglia, cosa che in una città è impossibile. Eppure quello è a prezzo di mercato, se uno vuole andare ci va. È lì per tutti, non solo per gli immigrati. Chiaramente bisogna pagarsi in quel caso lì l'affitto o utilizzare i pochi risparmi che si hanno per fare questo. Non sono in molti a farlo, questo pure bisogna anche prendere atto di questo, cioè quelle condizioni offerte a quegli immigrati probabilmente le stesse, non so se farebbero veramente, come dicono alcuni di voi, presa anche sugli italiani. La metto lì, 800 24 00 24. Allora, l'UFO su Firenze, mi sa che anche l'altra volta che ci eravamo sentiti l'avevamo presentato con questa canzone di Litfiba, e sarebbe Heike Schmidt, il direttore della Galleria degli Uffizi di Firenze. Buonasera e buon anno. Buonasera e tanti auguri. Auguri. Allora, perché l'UFO su Firenze? Perché è un tedesco planato a Firenze a dirigere gli Uffizi col bando del Ministero, quanto tempo fa? Poco più di un anno fa? Sì, dall'inizio di novembre dell'anno scorso, okay. Del 2015, quindi 2 anni fa, cioè in verità un anno e un mese fa. Un anno e mezzo fa, un anno e mezzo. 2015 è iniziato. E allora, Schmidt ha una lunga carriera, ha lavorato al Getty Museum, poi a Sotheby's a Londra e poi è arrivato agli Uffizi. Insomma, intanto quest'anno si chiude con, e questa è la notizia, con un record di visitatori. Superata la soglia dei 2 milioni di visitatori in un anno, la prima volta, sbaglio o siete, Repubblica dice, il primo museo statale d'Italia? Sì, siamo il più visitato museo d'Italia, cioè non ci sono musei comunali con più visitatori. Vabbè, insomma, gli Uffizi si sa che godono di una grande... I musei, poi ci sono i parchi archeologici che hanno ancora più visitatori di noi, ma come museo siamo la struttura più visitata in Italia, e per quanto riguarda i metri quadri siamo il museo più visitato del mondo, infatti, con questi numeri. Però insomma, intanto questo record, per chi poteva in qualche modo avere criticato a suo tempo la nomina di uno straniero, io ho pensato allora, lo penso anche adesso, si parla tante volte male dell'Europa, questa volta è un caso in cui l'Europa, come dire, l'Europa delle possibilità, abbiamo una persona di qualità, anche se è un tedesco, che viene a dirigere gli Uffizi e guarda caso, forse sarà un caso, però poi questa volta si porta a casa anche il risultato di un record di visitatori. L'Europa delle possibilità la convince come idea? Convince come idea, infatti credo che anche la programmazione che abbiamo fatto l'anno scorso e che continuiamo nell'anno che ora è iniziato da 3 giorni ha una impostazione un po' più europea rispetto a prima, eventualmente, nel senso che guardiamo proprio di destagionalizzare le visite, che infatti abbiamo inaugurato delle mostre proprio in autunno per avere più visitatori durante questo periodo, altrimenti piuttosto morto, che per Firenze, per gli Uffizi, è una cosa molto positiva, perché d'inverno, novembre, dicembre, gennaio, normalmente febbraio, era tutto fermo. Abbiamo relativamente fermo, cioè nel senso che... Sì, no, dico normalmente, perché... storicamente era un pochino tutto fermo, adesso invece voi avete cercato di rivitalizzare, tra l'altro con aperture anche il 31 dicembre. Ha avuto problemi con i sindacati per tenere aperto il 31 dicembre? No, non abbiamo avuto problemi. Infatti anche abbiamo aperto poi mezza giornata anche del 1 gennaio, anche questo è andato molto bene, con più di 3.400 visitatori. Quindi in verità il vantaggio e l'unica opportunità di aumentare visitatori è quella della bassa stagione, perché in verità abbiamo ancora una bassa stagione a Firenze, non è che è sempre così, le lunghe file conosciamo. Ecco, lei vuole fare che le lunghe file ci siano più possibile quasi sempre, quasi tutto l'anno, insomma, non soltanto nel periodo della primavera o dell'estate, ma tutto l'anno. Senta, però, domanda che molti si faranno, scettici all'ascolto, dicono sì, sono aumentati i visitatori, ma siccome ci sono le domeniche gratis, ci sono le iniziative di questo tipo che non portano incassi al museo, sono aumentati anche gli incassi o no? Sì, sono aumentati anche i incassi. I domeniche gratis sono stati introdotti immediatamente dopo l'arrivo del ministro Franceschini nel 2014 e senz'altro hanno contribuito a questo risultato, come anche le aperture straordinarie di martedì sera che abbiamo introdotto quest'estate, quelli erano a pagamento, ma anche gli incassi sono infatti aumentati. Un martedì, come ha fatto anche per esempio Brera a Milano il giovedì, giorni in cui, non il weekend, in cui magari i più giovani vanno a fare altro, e può essere un modo per attrarre anche i giovani nei musei italiani. Senta, aveva detto, mi ricordo a suo tempo, aprire ai privati, anche affittando delle sale, degli Uffizi, prestigiosi Uffizi, non è un'eresia, si potrebbe fare per incassare un po'. L'avete fatto? Allora, le sale degli Uffizi effettivamente non ho mai detto, perché questo da un punto di vista sia pragmatico che anche simbolico è poco indicato, nel senso che per dare ai visitatori l'esperienza migliore dell'arte è necessario di ottimizzare l'installazione dell'opera d'arte per una visita tranquilla, e per esempio se si affittasse a privati o a qualsiasi, se si utilizzasse per qualsiasi altro tipo di attività che non la visita museale, bisognerebbe poi risistemare tutto, cioè non è possibile di mettere semplicemente un tavolo e la gente si mette a sedere a mangiare, per esempio, questo non è possibile per giunta, e io convinto che ci devono essere anche dei spazi che non sono che non si possono affittare per il loro grande valore, però alcuni spazi sì, per alcuni scopi sì. Quello che abbiamo fatto è di aprire Pitti per la moda, specificamente abbiamo riportato le iniziative di Pitti Uomo, Pitti Filati, Pitti Moda, praticamente a Palazzo Pitti, dove tutto è nato. Quindi altri spazi collaterali sono stati utilizzati a questo scopo. Senta, le voglio chiedere ancora una cosa. Lei è tedesco, la Germania è il paese, quando si pensa all'organizzazione, al funzionamento delle cose, il paese ideale, non c'è nulla da fare, è un luogo comune, ma è la verità. Che effetto le ha fatto invece lavorare con l'Italia, il livello di organizzazione che ha trovato in Italia? Come ha trovato, non so, prima gli Uffizi quando è arrivato, oppure il Comune di Firenze, come è stato collaborare con queste realtà? No, collaborare mi piace molto, ci sono molte qualità degli italiani che io esporterei. Ma l'organizzazione? Allora, dell'organizzazione abbiamo fatto una riorganizzazione qui agli Uffizi, una riorganizzazione secondo criteri di funzionalità, e quindi questo ora si vedono già i primi risultati. Quindi lei ha cambiato l'organizzazione. Sì, l'organizzazione dietro le quinte è stato cambiato piuttosto radicalmente, però i risultati da fuori si vedono solo dopo un po' di tempo, naturalmente. Beh, intanto si vede il risultato dei visitatori, abbiamo già detto. Esattamente, questo sì. Quindi, è un merito. Infatti. Però direi dal punto di vista organizzativo spero di poter contribuire, infatti poi ci sono altre qualità che veramente ammiro negli italiani, anche il talento dell'improvvisazione, per esempio, questa è una cosa che manca completamente a certi tedeschi. Certo, noi per risolvere un problema, anziché trovare una soluzione, improvvisiamo, e questa è un po' talvolta, però questa è una virtù che io cerco di imparare sempre di più, che io esporterei subito in Germania, in Svizzera, in Svezia o anche in America, infatti. Quindi ci sono molte virtù, poi c'è anche il senso estetico che ogni italiano ha, cioè questo si vede anche per esempio negli aeroporti internazionali, si capisce subito quando c'è un gruppo di italiani che oltre dal livello dell'audio anche da come sono vestiti. Grazie anche Schmidt, grazie per essere stato il direttore degli Uffizi, buon anno anche ancora per commentare la notizia. Oltre 2 milioni di visitatori agli Uffizi, un record, quindi una buona notizia. Con la cultura non si mangia, diceva Tremonti, invece si comincia a smangiucchiare. Vai, mettiamola così. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta Si può fare, cronache da un paese migliore. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all. You're only human after all. 19:35, buonasera a tutti e ben ritrovati ascoltatori. Allora, 800 24 00 24, abbiamo chi abbiamo? Mauro che chiama dalla provincia di Milano, benvenuto. Grazie per avermi richiamato, volevo intervenire sulla questione di Grillo, sulla proposta di Grillo. Sì, intanto mi faccia dare solo questa notizia, perché in effetti la notizia è: Movimento 5 Stelle votano in 41.000, codice etico passa col 91%. Vai. Benissimo, percentuale bulgara come immaginavo. Un tempo si diceva percentuale bulgara, adesso si dirà percentuale 5 grilline. Stelle. Grilline, esatto. Intervenivo in questo senso. Io ho 54 anni, come dicevo, le sue collaboratrici. Ho sì, che altro, scusa Mauro, che altro forse non sono tanti 41.000 votanti, perché non, no, non sono molti, non sono ma è la rete, basta 41.000, rappresentano 60 milioni di italiani. Sono pochi affezionati, molto diciamo allineati sull'opinione. E decidono se si può pubblicare un articolo o no in 41.000, molto bene. Ma la questione non è questa, perché la questione è che io ho 54 anni, io credo che sono sempre stato un credulone nella mia vita, nel senso che quando sentivo le varie campagne elettorali da 35 anni a questa parte, anche di più perché già a scuola mi interessavo di politica, alle scuole superiori se veniva erano gli anni 76, 77, 78, quindi c'era un tempo di far politica anche a scuola, e io ho sempre creduto fino a prova contraria a tutto quello che veniva detto, mano a mano, secondo le mie convinzioni, quello che credevo opportuno che si facesse. E i politici sono sempre stati capaci di darmi la prova contraria e non riuscire mai a mantenere quello che promettevano. Sono arrivato a 54 anni deluso da tutti quelli che bene o male ho votato, seguito. Ma credo che l'errore più grande da imputare alla classe politica che ci ha accompagnato in tutti questi decenni sia stata proprio la nascita del Movimento 5 Stelle. Io credo che il movimento di Grillo e di Casaleggio, perché è loro il movimento, prima del padre, ora del figlio, sia il figlio naturale e legittimo della politica italiana. Non sia una rivoluzione, un cambiamento, sia esattamente l'arrivo finale, il punto d'arrivo finale della degenerazione. Beh, però per essere un figlio, italiana. È un figlio quantomeno incazzoso, ribelle. Sì, incazzoso, perché, ma naturale e legittimo. È un po' come se, guardi, perché poi quando mi dicono che non è il movimento di Grillo e Casaleggio, è come se mi dicessero che la Juventus è dei tifosi juventini e la Fiat è dei dipendenti di Mirafiori. Cioè è una cosa incredibile riuscire a spacciare delle cose di questo genere. Ma io dico che è il figlio arrabbiato, fintamente incazzoso, ma della degenerazione della politica. Cioè se i politici non fossero stato quello che sono stati, il Movimento 5 Stelle non sarebbe potuto nascere. Questa è la colpa più grave dei nostri politici. Sì, vabbè, scusa Mauro, adesso però non sono d'accordo, perché adesso è stato messo al voto questo codice etico. Se non hanno votato gli aderenti, gli iscritti, è un problema loro, è un problema della testa degli italiani, non è un problema di Grillo in questo caso, del Movimento 5 Stelle, perché il gesto è stato fatto. Votate, dite la vostra, informatevi. Se poi gli italiani non lo fanno, gli stessi elettori del Movimento 5 Stelle, il problema sta alla base allora, non sta in testa. Ma per fortuna ha votato solo in 41.000, che vuol dire che forse anche dentro Movimento 5 Stelle si rendono conto che è una puttanata. Ma lei si rende conto cosa vuol dire chiedere di votare? Sì, ma è una puttanata che gli altri partiti non hanno mai fatto. Gli altri partiti hanno sempre fatto quello che cavolo gli pareva a loro, hanno sempre fatto al chiuso delle stanze come gli pareva a loro, e senza chiedere niente a nessuno. Qua si chiede, è una differenza. Poi uno può dire che è una messa in scena, può dire quello che gli pare, però intanto non partecipare al voto per dire, per esempio, no, sono contrario, è una stupidaggine, perché uno partecipa al voto e dice e vota e esprime una preferenza. Non è mai stato chiesto in passato, questo bisogna dirlo. Ma guardi che la democrazia come nei paesi occidentali, diciamo così, normali, tranne un po' in Svizzera lo fanno referendum anche sulle pisciate, ma non è una democrazia dove si vota su ogni stronzata che uno gli viene in mente di dire, cioè facciamo un tribunale allora popolare. Che cos'è la democrazia? Scusi, io non ho capito cos'è la democrazia, lo sapete voi? Facciamo un tribunale popolare per decidere se i scudetti revocati alla Juve e dati all'Inter sono giusti. Facciamo un referendum online per sapere se gli scudetti dati la giustizia sportiva non vale un cazzo, facciamo un referendum. Guardi, io le faccio un esempio. La giuria popolare, per un giornalista che lavora alla radio, è sempre esistita, perché noi siamo sottoposti al commento degli ascoltatori, noi, bravo, i colleghi del giornale, vendite, ma da sempre, alle vendite, ma anche ai commenti. Quindi prima ancora che ci fosse internet, bastava inviare un sms o chiamare ogni sera, da quando c'è Radio 24, per passare il giudizio degli ascoltatori alle cose, o anche, per usare una parola peggiore, alle cavolate che potevano essere dette da questi microfoni. Quindi questo è normale, è un bagno di umiltà che adesso devono fare anche i giornalisti, forse della carta stampata, che non erano abituati, e forse anche delle televisioni. Su questo io dico che penso che abbia ragione Grillo. Poi non la voglio mica convincere, per carità. No, ma non mi convince. Guardi che io sono convintissimo che il problema è proprio il figlio deteriore della politica italiana. Va bene, Mauro, vengano. Grazie, buona serata. Prego. Perfetto, Alessandro da Roma, prego, vai. Sì, buonasera. Mi sente? Sì, forte e chiaro. Sì, perfetto. No, allora, io ho scelto di intervenire perché ascoltavo la discussione con un ascoltatore a proposito dell'esempio, faceva l'esempio, per esempio, dei vaccini, Grillo, sì. E lei ha detto... sì, però bisogna anche garantire la libertà di cura. Attenzione, io volevo dire questa cosa, attenzione a non far passare il concetto che la libertà individuale sia un valore a prescindere. Lo è, per carità, e va garantita, ma fin tanto che non incide sul bene della collettività. Sì, ma non si parlava però dei vaccini, io ho detto si parlava della verità scientifica. Io ho detto libero di applicare i risultati della verità scientifica. Se uno si vuole curare con i beveroni, può farlo. Perfetto, ma chiedo scusa. Però vaccini, lei dice questo sui vaccini è un caso particolare, perché riguarda tutti. Mi consente un esempio brevissimo e semplicissimo per far capire proprio cosa intendo. Allora, se io mi prendo un'infezione che il mio medico mi dice devi curare con l'antibiotico, io ho tutto il sacrosanto diritto di scegliere di non prendere l'antibiotico e di curarmi con l'omeopatia. Rischio soltanto la mia salute personale. Ma se io decido che mio figlio non deve fare i vaccini, perché credo a quel che dice Grillo, che i vaccini fanno male, sono un complotto delle multinazionali, eccetera. Attenzione, perché io non sto soltanto mettendo a rischio la salute di mio figlio, che comunque sul quale esercito la patria potestà, ma col mio comportamento, il mio e quello di tanti altri che la pensano come me, rischio in un paese che ha debellato alcune epidemie di ricreare un focolaio, perché mio figlio potrebbe beccarsi delle malattie e diventare a sua volta contagioso. Questo qualunque medico può dirlo. Sì, vabbè, Grillo quindi non dice che non bisogna vaccinarsi, però volevo spiegare il concetto. Attenzione, perché la libertà è un diritto sacrosanto in un paese di diritto, giusto appunto, ma deve venire dopo il bene della collettività. Certe scelte che sembrano soltanto dettate dalla libertà individuale spesso inconsapevolmente mettono a rischio la collettività. Purtroppo non lo dirà Grillo, ma sta passando molto il concetto che non ci si deve più vaccinare. Stiamo rischiando non solo la salute dei nostri figli, ma di tutta la comunità, perché ci rischiamo di ricreare dei focolai che magari con l'immigrazione da paesi dove ci sono delle pandemie. Quindi attenzione, libertà individuale deve essere limitata. Lo è, di fatto lo è, c'è l'obbligo di alcune vaccinazioni, lei lo sa meglio di me. Poi ci sono alcune regioni che hanno subordinato l'iscrizione a scuola, addirittura alle scuole dell'infanzia, ai bambini solo vaccinati. In altri paesi non c'è l'obbligo, ma sono paesi dove la gente si vaccina comunque, questo è indubbio. Andiamo con Luigi da Imperia, buonasera. Ah, buonasera, sì, sono Luigi da Imperia. Prego. Volevo dire questo, una cosa veloce sui giornalisti. parafrasando un illustre personaggio, non ricordo il nome, diceva che nella storia contano anche i fatti che non accadono, non solo quelli che accadono. E allora anche per i giornalisti non contano solo le cose che scrivono magari in malafede, ma anche quelle che non scrivono. Questa è una. Poi, sì, due, quella dei musei. Ma io sento dire sempre questa storia dei musei, quale è più pieno, quale è più frequentato. Ma i musei si riempiono solo se nelle scuole educano i ragazzi alla storia della letteratura, alla storia dell'arte. I ragazzi non sanno neanche, se voi gli chiedete dov'è il museo di Michelangelo, se voi gli chiedete dov'è la Valle dei Templi, non solo i musei non sanno, quindi però i musei si riempiono. Se si trova il modo di farceli andare nei musei, si fa comunque un'operazione positiva. Ma non è vero, ma non è vero, non è vero. Guardano quello che ma non è vero, ma non è vero, lo dice lei. Sì, perché lo dico io per esperienza. Sai, quando vanno in gita scolastica, sì, si informano dove sono le migliori discoteche. Non certo. Ma questo perché sono ragazzi, è ovvio. L'importante è che ci sia un progetto culturale della scuola che li fa andare di qua di là. Sì. È quello che non c'è. Se citavate le scuole, andate a vedere. Se chiedete a un ragazzo dov'è il museo o dov'è, che ne so io, la Monaca Leitiana, non lo sanno. Assolutamente. Vi saluto, buonasera. Va bene, buonasera Luigi. È sicuro. Va bene. Ha detto la sua. Giorgio da Venezia, buonasera. Sera Alessio. Eccolo qua, Giorgio, vai. Sì, buonasera. Io sono di Martellago, vicino a Venezia. Volevo dire che sono uno di quelli che ha votato per questo regolamento. Quello del 5 Stelle, perfetto. Quello del 5 Stelle. Hai votato sì? Ho votato sì, anche se credo che siano veramente pochi quelli che hanno votato no, e la mia impressione è chi ha votato no. Allora, te l'ho detto, 41.000 votanti, 91% di sì. Esatto, di quei 41.000, quindi molto. Perché uno che ha votato no non c'entra col Movimento 5 Stelle? Sì, volevo sostenere questo. Perché? Ti dico velocemente che io sono stato attivista per qualche anno, sì, anche se il movimento è molto giovane. Io nel 2007. Sei già un ex, anche se il movimento è giovane, sei già ex. Sì, sì, sono già ex perché è giusto che ci sia questo ricambio e ci sia. Continuamente, nel senso, certo, che io adesso questa è una cosa che condividerei anch'io teoricamente. Io l'ho fatto perché l'ho fatto come un'opera di volontariato. L'ho fatto quando giravo con la tromba per le vie di Mestre. Però adesso, scusami dietro. Giorgio, se ti interrompo, ti faccio proseguire. Però tu dici questo concetto è giusto farlo per un periodo e poi abbandonare. Ma quelli che sono i leader di adesso, che sono già alcuni anni che sono in Parlamento, Di Maio, Di Battista, cioè, pensi che molleranno alla prossima legislatura o saranno ancora lì? E questo sarebbe giusto o sbagliato? Allora, io credo che su certe personalità, quelle che il movimento riconosce come tali, se loro hanno voglia di spendersi ancora, perché non è detto che vogliano farlo, che questa cosa sarebbe incredibile in un altro movimento, in un altro partito politico. Cioè dire io... Mettiamo che non abbiano voglia di fermarsi. Mettiamo che, come sembra, non hanno alcuna intenzione di fermarsi, Di Maio e Di Battista, e che vadano avanti. È giusto o sbagliato, secondo te? Se mettono questo al voto in rete, io sicuramente li voto. Perché sono persone però questo non vuol dire snaturare il movimento che era appunto assolutamente no, perché hanno reputazione, vabbè. Però probabilmente saranno loro a dire no. Va bene. Per esempio qua c'è un sindaco, sì, solo una testimonianza, sì, c'è un sindaco 5 Stelle giovanissimo a Migra, che io so non si vuole ricandidare, eppure è amato da tutti. Dopo tre anni di attività qui a Venezia tutti gli vogliono bene, perché sta facendo bene, eppure lui... Lo so, ma le regole che vi siete dati sono regole, per quanto mi riguarda, giuste, io penso, condivisibili. Sono, credo, anche il tratto che vi hanno fatto avere tanti consensi elettorali, perché la gente ha detto finalmente c'è qualcuno che fa qualcosa di diverso. Se poi queste regole piano piano si cambiano, è chiaro che poi piano piano gli elettori si faranno le loro considerazioni. Grazie comunque Giorgio, buona serata. Got a lot of things to do in this world, got a lot of things to do in this world, got a lot of things to do in this world, got a lot of things to do in this world. I lost myself now, got a lot of things to do in this world. I lost myself now, got a lot of things to do in this world. Got a read a book, got a glass of wine, got a super duper market so divine. Yes, I graduate soon, gotta walk the line, gotta find your way, you lose it, fuck you, kill you online. I lost myself now, got a lot of things to do in this world. I lost myself now, got a lot of things to do in this world. I love myself now, got a lot of things to do in this world. I love myself now. E tra le tante cose che ci sono da fare belle nel mondo, secondo Rafael Gualazzi, c'è anche leggere un libro. A Torino c'è chi lo fa per voi, libri di poesie in particolare, anzi proprio vere e proprie poesie. Accade nella metropolitana di Torino, dove tu entri e in sottofondo, anziché le solite musichette, puoi sentire recitata una poesia contro il logorio della vita moderna, abbiamo commentato noi scherzando in redazione, credo che sia questo il senso. Ecco, noi Nicoletta Fabrizio, presidente dell'associazione culturale Young Writers and Storytellers, grazie per tutto questo inglese che io pronuncio male, però buonasera Nicoletta. Buonasera, buonasera a tutti. E animatrice insieme all'azienda che gestisce la metropolitana di Torino di questa curiosa, originale iniziativa. Come siete arrivati a questa idea, Nicoletta? Allora, a questa idea siamo arrivati dopo le nostre attività che l'associazione IOVRAS realizza già da qualche anno, e la maggior parte sono dedicate alla poesia. E quindi dopo aver esposto una mostra dedicata ai poeti in un centro commerciale, avere attaccato le poesie in modo incruento agli alberi della piazza di Pinerolo per due anni durante il Salone del Libro, siamo arrivati alla poesia ascoltata, la poesia che si può ascoltare in metropolitana mentre si aspetta l'arrivo delle vetture. Quindi a voi piace la poesia in tutte le sue forme. La domanda che faccio però è questa: e siete stati contattati per questo progetto in nome di quello che facevate, o siete stati voi a proporre questa, ripeto, curiosa iniziativa che adesso poi ci racconterà un po' meglio? Siamo stati noi a proporre al gruppo Torinese Trasporti, che gestisce la metropolitana di Torino, di inserire all'interno delle trasmissioni di radio GTT che vengono diffuse in tutte le stazioni della metropolitana dei interventi poetici. Poetici. Quindi adesso uno entra in metropolitana dentro il vagone o già negli spazi della dove si aspetta il vagone? Negli spazi dove si aspetta. Dove si aspetta. Esatto, e si è dedicato proprio a quel luogo lì, anche perché la web radio funziona in quelle zone, e un certo numero di volte al giorno ci sono degli interventi di un paio di minuti dedicati alla poesia. Vengono declamati, vengono letti i versi dei poeti più famosi, le poesie più conosciute e qualcuna anche un pochino meno conosciuta. Insomma, è una cosa, noi ci ha aperto il cuore questa notizia, scherzando abbiamo ricordato quella vecchia pubblicità che diceva contro il logorio della vita moderna, era la pubblicità di un noto amaro, però in questo caso arrivate voi, perché insomma uno le poesie le studia a scuola, in quella fase lì della propria vita, poi c'è meno tempo, ci sono meno strumenti, la poesia esce un po' dalla nostra vita, è un peccato però, invece in questo modo rientra. Esatto, e diciamo che è la proposta di magari fare la pace, ecco, con la poesia, con quella imparata a memoria negli anni di scuola dei non più giovanissimi e con gli autori che comunque si studiano tuttora, per capire che magari un po' di poesia può entrare nel nostro quotidiano, magari mentre prendiamo la metro per andare al lavoro. Chi le legge? Sono delle voci di attori, di speaker, o voci note? Chi è che le legge queste poesie? Allora, le voci non sono note, sono lettori che hanno esperienze di interpretazione di testi, di lettura ad alta voce, su 8 lettori una voce è quella di una attrice doppiatrice che interpreta le introduzioni e le conclusioni di ogni momento poetico, perché c'è una musica riconoscibile che scandisce l'arrivo della poesia. È spiegata anche la poesia? Non è spiegata, ma è annunciata. È annunciata. Il nome del lettore, il nome dell'autore e il titolo della poesia. Quindi di Leopardi, L'infinito. Esatto, e poi parte la poesia. È proprio così. La poesia ha un piccolo sottofondo musicale, insomma anche proprio i versi hanno un piccolo sottofondo musicale, sono dei frammenti, quindi le poesie molto brevi restano. Certo, quelle lunghe non saranno lette tutte. Immagino, come sta andando, quali sono le reazioni, se ci sono delle reazioni, mi immagino le facce delle persone lì che aspettano la metropolitana e che alzeranno forse lo sguardo, cercando magari nelle facce degli altri di leggere la reazione, no? A questa cosa che ci riporta forse a quando andavamo a scuola, ad altri momenti della nostra vita. Sì, noi speriamo che avvenga così. L'iniziativa è cominciata veramente da poco, quindi anche noi dell'associazione monitoreremo l'ascolto andando di persona così viaggiando nella metropolitana a controllare e a cogliere le espressioni dei viaggiatori per capire ad annotare quale poesia è piaciuta magari quale no, può anche darsi anche questo può essere, perché è vero che gli autori sono molto famosi, ma così che tipo di autori avete scelto e di poesie? Ma abbiamo scelto i titoli più famosi delle poesie di autori celebri, da Emily Dickinson a Ugo Foscolo, da Giovanni Pascoli a Walt Whitman, Neruda, García Lorca, Leopardi e Prévert. Ecco, diciamo che sono 19 i poeti e sono i più conosciuti, proprio perché ci piace richiamare alla memoria qualcosa di già ascoltato e magari invitare alla ricerca di poesie che non si conoscono, di altre poesie scritte da quell'autore, così magari partendo da un verso che si è ascoltato entrando o uscendo dalle vetture della metropolitana. Insomma, siamo abituati a guardare tutto sullo smartphone, a cercare tutto sullo smartphone. Questa però è una proposta audio che arriva in un luogo inatteso. Ce ne vuoi leggere magari una, recitare una piccola, una corta, un pezzo, una che ti piace particolarmente? Questa è una sono presa un po' la il contropiede, ma no, ma come? Niente, sono non c'è, non c'è, non c'è. Diciamo che la leggo io allora. Sì, diciamo che se allora, la leggi tu è preferibile. Ma io la leggo malissimo. Così tra questa allora, Leopardi, l'infinito. Così tra questa immensità s'annega il pensier mio e il naufragar m'è dolce in questo mare. Vabbè, questa è benissimo. Questa è bella, questa è una più clamorosa. E va bene, Nicoletta, grazie per essere stata con noi. Fabrizio, di com'è che si pronuncia Jouras? Jouras. Quindi qualcuno che in qualche altro comune di Milano, perché no, che è interessato a questa possibilità, vi può contattare. Voi siete a disposizione, immagino. Noi siamo a disposizione, perché ci piace diffondere quella che io chiamo la cultura con la C minuscola, chiedo scusa, perché è quella che arriva al maggior numero di persone, e anche attraverso un frammento di poesia la cultura con la C minuscola può arrivare lontano, secondo noi. Grazie, auguri. Grazie a voi, buona serata. E questa era la storia di Torino, poesia in metropolitana. Vincenzo da Firenze, buonasera, benvenuto. Buonasera carissimo. Eccoci qua. Cosa allora, volevi dire? Sono la ricerca di un paese normale. Perché a 62 allora anni. Emigra, allora ti conviene. No. Io sono un imprenditore, 62 anni. Sì. 68. Comunista, ma innamorato del libero mercato. E mi domando e dico: ma perché non ci danno un paese normale? Non chiediamo tanto. Vincenzo, stiamo qua fino a domani mattina a parlarne? Oppure... Io ti auguro di trovarlo un paese normale intorno a te. A volte la normalità, in senso positivo, come tu dici, bisogna anche saperla cercare. Grazie comunque per questo tuo accorato appello. Marco da Padova, l'ascoltatore con cui abbiamo parlato un'oretta fa, sì. Hai votato sul sito, sì, ce l'avevi già detto. Sì. Ecco. Allora, soddisfatto di questo risultato? Soddisfattissimo. 91% di voti favorevoli è sì. Un po' poco la percentuale di quelli che hanno votato contro, ma soprattutto non sono tanti o è un numero soddisfacente. 40.000 votanti, cioè il Movimento 5 Stelle ha milioni di voti in Italia. Sì, ma quello è vero, però dico una cosa. E rispondendo anche al signore di Milano prima, che diceva che era una farsa quella di Grillo. Sì. E 41.000 persone, ok, vuol dire che gli altri, ma non solo quelli iscritti al blog del Movimento 5 Stelle, che sono 100.000, ma tutti gli italiani, poi sono capaci di lamentarsi, ma di impegnarsi politicamente non vogliono impegnarsi. Perché votare, impegnarsi in politica, perché ma la politica è noiosa. Sono d'accordo con te, devo chiudere, però questo, dico solo questo, vale anche per gli elettori del Movimento 5 Stelle, che sono in pochi ad essersi iscritti sulla piattaforma, e ancora meno quello che hanno votato, forse 41.000. Comunque, ne riparliamo, 800 24 00 24, ma non stasera, domani. Grazie Marco da Padova, grazie a Miriam Lucchetti, Matteo Ramelli, Pietro Lacorte, in regia. Ci sentiamo domani. Ciao da Alessio Maurizio. Ciao.